I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Deborah Rosciani. La migliore notizia della settimana, almeno secondo i mercati, è stata la decisione dell'OPEC di intervenire sulla produzione di greggio. Ad Algeri, i paesi membri del cartello che produce il 40% del petrolio mondiale hanno deciso di tagliare la produzione giornaliera di oltre 700.000 barili. Non accadeva da 8 anni. L'accordo verrà siglato a fine mese a Vienna, però non si sa ancora come saranno distribuiti i tagli fra i vari paesi membri. Ma in ogni caso il vertice di Algeri è servito a far ripartire le quotazioni in questi giorni fra i 47 e i 48 dollari al barile e a spingere anche i titoli del settore, in particolar modo a Milano, Eni, Saipem e Tenaris. Il tema che però più di tutti preoccupa la comunità finanziaria, come noto, è la situazione della banca tedesca Deutsche Bank, condannata a pagare una multa da 14 miliardi alle autorità americane. Sulla prima banca tedesca si è aggiunta nei giorni scorsi l'ennesima tegola. I 10 principali hedge funds americani hanno drasticamente ridotto il loro investimento, facendo precipitare il titolo anche a Wall Street. Questa vicenda continua a mettere sotto pressione tutto il settore bancario europeo, in particolare quello italiano, già appesantito dalle note vicende domestiche, tanto che per questa mattina è stato convocato dal ministro del Tesoro Padoan il periodico incontro al Ministero dell'Economia per fare il punto della situazione. Ci saranno il governatore della Banca d'Italia, Visco, i vertici di UBI, Unicredit e Intesa e i rappresentanti del Fondo Atlante. A causa della tensione sul settore bancario, settimana scorsa a risentirne di più sono state UBI Banca, che sarebbe alle battute finali nelle trattative per rilevare le Good Bank di Cassa di Risparmio di Chieti, Banca Etruria e Banca Marche, ma le anche Unicredit in attesa del piano industriale e Monte dei Paschi, anche in questo caso in attesa del piano industriale che verrà approvato a fine ottobre, dell'importante aumento di capitale di cui necessita. Per gli appuntamenti da segnalare in settimana, in Cina mercati chiusi per tutta appunto la settimana, la Banca Centrale Europea pubblica i verbali dell'ultima riunione, dagli Stati Uniti arrivano le statistiche sull'andamento del comparto manifatturiero, gli ordini di beni durevoli e soprattutto la disoccupazione di settembre e stasera in Italia i dati sulle vendite di auto di settembre. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Arrivano oggi dall'Istat alcuni dati moderatamente positivi sui conti pubblici. In primo luogo migliora il rapporto deficit-PIL, che nel secondo trimestre del 2016 è stato pari allo 0,2%, che è il livello più basso dal secondo trimestre del 2017 e fa segnare un progresso di 0,7 punti percentuali su base annua. Buone notizie anche sul fronte della pressione fiscale, cioè l'incidenza complessiva di tutte le entrate di tasse e contributi in rapporto al prodotto interno lordo. Nel secondo trimestre di quest'anno la pressione fiscale è stata del 42,3%, in calo di 0,4 punti. Il livello comunque resta molto elevato, questo è evidente, ma insomma questo miglioramento deve essere colto. In ogni caso dobbiamo aggiungere che si tratta di un miglioramento che non è dovuto alla riduzione del prelievo, infatti le entrate fiscali del periodo sono in aumento, quanto a un miglior andamento del prodotto interno lordo. A conferma comunque di un clima di incertezza, di aspettative non proprio improntate all'ottimismo, arriva invece il dato sull'aumento della propensione al risparmio delle famiglie, che torna a livelli record. Nel secondo trimestre del 2016 la quota di reddito risparmiata è salita al 9,6%, il valore più alto dal primo trimestre del 2010. Aumenta la propensione al risparmio e quindi resta modesta, bassa la spesa delle famiglie per consumi finali. Ancora una volta, quindi, arriva la conferma di una crescita dell'economia che resta molto debole. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.